La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, Oscar Giannino qui in diretta agli studi di Milano vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto, come sempre sia che siate in diretta sia che ci scarichiate e ascoltate in podcast, vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, chiocciola24.it. E per chi ieri avesse avuto altro da fare, veramente torno a dirvi, vale la pena di sentire in podcast anche la puntata di ieri. Abbiamo presentato un bellissimo libro, secondo me, sul tema della legittima difesa e la particolarità che spesso avvampano le polemiche quando avvengono rapine, ci sono reazioni degli esercenti o dei familiari che si vedono i rapinatori in casa. Torno a ripetere il titolo, Legittima difesa, è scritto da due figli di un tabaccaio a Milano che reagì nel 2003 a una rapina e in primo grado venne imputato per omicidio volontario. La particolarità di quel libro è stare fuori dalle polemiche politiche contrapposte che in tanti anni a ogni evento avvengono, ma descrivere che cosa avviene in un processo di quel tipo, perché l'imputazione era di omicidio volontario, di tentato omicidio. 9 anni dopo naturalmente è stato il tabaccaio in questione totalmente assolto, è stata riconosciuta la legittima difesa, ma è un libro che spiega quali sono gli argomenti concreti per cui l'articolo 52 del codice penale andrebbe rivisto invece di far tante polemiche da parte della politica. Detto tutto questo, ho fatto questo appello solo perché, ripeto, ieri era giorno di festa, so che moltissimi erano fuori. Andiamo invece al tema di oggi, che è collegato in qualche modo al 1° maggio, perché parliamo in queste due parti della puntata, come sempre, di due notizie che ieri c'erano sui giornali e a mio giudizio raccontano di un problema vero, cioè delle contraddizioni, dei limiti, io non voglio giudicare ma giudicherete voi ascoltando, dei limiti che ci sono nella maniera in cui spesso, non dico sempre e non generalizzo, ma spesso viene esercitata la funzione di rappresentanza sindacale. E sono due articoli che ieri secondo me entravano proprio nel vivo, facevano due esempi concreti che oggi vi ripropongo. Uno relativo alla vicenda Almaviva, e anzi, se ci sono in ascolto, se ci ascolta qualcuno da Roma, delle centinaia e centinaia di dipendenti Almaviva che ohimè sono stati licenziati, chiamateci pure per dire cosa pensate di questa sentenza che è uscita. Sono 1666 i licenziamenti del call center di Roma ad Almaviva, a Napoli invece sono stati più tutelati e sono rimasti 800 al lavoro. Ma detto questo, questa è la prima vicenda e adesso ve la raccontiamo, perché è molto raro che in Italia sia una sentenza di un giudice del lavoro a entrare nel merito di come il sindacato si è comportato in una vicenda di gravissima crisi aziendale e di tantissimi licenziamenti minacciati e poi a Roma avvenuti. E la particolarità di questa sentenza, ne ha scritto ieri il Messaggero, e nello stesso giorno il Corriere della Sera proponeva un'altra vicenda che invece deve ancora avvenire, però che è stata segnalata in anticipo perché è rimbalzata da Tutto Scuola a altri siti e a rete di chi si occupa di scuola, ed è relativa ad un'assemblea che viene convocata da un sindacato il 5 maggio e che riguarda in teoria migliaia e migliaia di docenti e dipendenti amministrativi della scuola della provincia di Roma, e che guarda caso è in contemporanea con i test di matematica fissati per le seconde e le quinte della scuola primaria italiana il 5 di maggio, i test dell'Invalsi. Anche qua sarà un caso? Non lo so se è un caso, vedremo. Però intanto cerchiamo di proporre alla vostra attenzione ciò che era su quei due quotidiani, ma a me hanno molto colpito le vicende. La prima perché ha, per così dire, una portata istituzionale, visto che stiamo parlando di una sentenza, e vedremo perché emanata e in relazione a cosa e cosa c'è scritto in questa sentenza. L'altra invece è la segnalazione di una di quelle casualità che secondo me ci propone la ricorrente circostanza nella quale un sindacato, invece di dire esplicitamente che è contro l'Invalsi, ricorre a un sistema abbastanza singolare, formalmente inappuntabile, ma che però è come gettare un sasso nascondendo il dito. E questa è una cosa, secondo me, che a lungo andare poi agli stessi lavoratori, a coloro che non sono iscritti, insomma al mondo del lavoro, che la pensa in maniera diversa, come la pensano tutti gli italiani in maniera diversa, però alla fine risulta un po' evidente. Se si vuole una cosa, si combatta apertamente; se si è contrari, si combatta apertamente. Quello che non si può fare è dire una cosa per farne un'altra, e vedrete che anche nella prima vicenda c'è una singolare riproposizione con effetti terrificanti sugli occupati del dire una cosa e farne un'altra. Ecco, lo facciamo spesso per i partiti e la politica, un po' meno spesso per il sindacato. Oggi invece la facciamo il giorno dopo, il primo maggio, a proposito del sindacato. Non è una trasmissione, ripeto, che generalizza, però questi due casi tanto la vale la pena rifletterci, perché restino se possibile isolati. Allora, per parlarne con noi è il collega Il Messaggero, Diodato Pirone. Buon pomeriggio e grazie, Diodato. Buon pomeriggio a voi. Allora, cominciamo dalla vicenda Almaviva. Il titolo del Messaggero era: Almaviva, i licenziamenti colpa della CGIL. E uno dice: ma com'è? C'è un giornale, è diventato un giornale anti di sinistra, Messaggero. Invece è il caso di spiegare, come tu hai fatto, come si arriva a questa sentenza. Riepiloghiamo anche la vicenda Almaviva, come è sfociata in quei licenziamenti, perché c'è un giudice che si è pronunciato e cosa ha scritto il giudice. Allora, cominciamo dalla vicenda Almaviva. Benissimo, raccontiamo i fatti brevissimamente. Almaviva è una società, è una multinazionale dei call center che lavora in Italia e anche all'estero, in particolare in Brasile, dove ha oltre 30.000 dipendenti. Da alcuni anni a questa parte i call center di Almaviva, i principali che sono a Roma e a Napoli, cominciano a presentare conti in rosso per problemi che adesso sarebbe un po' lungo raccontare, ma insomma comunque cominciano ad andare in rosso. L'azienda chiede la cassa integrazione, poi si passa ai contratti di solidarietà, poi quando vede che il mercato continua a dare dei segnali negativi e quindi non ha più prospettive, chiede al sindacato nella primavera di un anno fa, non in tempi brevissimi, chiede al sindacato di intervenire in modo drastico, e cioè richiede un aumento della produttività attraverso il controllo individuale. Attenzione, senza che questo controllo individuale delle risposte degli addetti ai call center provochi delle conseguenze di tipo, delle multe. Delle multe, disciplinari, eccetera, eccetera. Gli chiede: per favore, fatemi controllare come vanno, perché in questo modo io disciplino meglio il traffico, vedo se c'è qualcuno che fa il furbetto e cerco. Insomma, le cose. E chiede anche una diminuzione del costo del lavoro. Ok? Significa una riduzione temporanea, cioè per alcuni anni, del costo del lavoro in attesa di potersi rimettere in carreggiata. Dichiara 2.600 esuberi, di cui 1.600 errotti a Roma e circa 800-850 a Napoli. Nel maggio del 2016 la CGIL, le altre organizzazioni sindacali, firmano un accordo con Almaviva e gli dicono: va bene, entro 6 mesi noi discutiamo di questo benedetto controllo individuale e vediamo un attimo di trovare un accordo. Ovviamente. Quindi in quell'intesa c'è la disponibilità formale esplicita a trattarla la faccenda, non è una proposta. Sì. Non c'era né da parte dell'azienda né da parte del sindacato il dettaglio, non c'era l'accordo, c'era la disponibilità a discuterne con la vigilanza del Ministero, perché intanto il Ministero ha autorizzato la cassa integrazione, poi i contratti di solidarietà, quindi qui cominciano a esserci anche soldi pubblici, o comunque buona parte di soldi pubblici, perché poi una parte dei contributi della cassa integrazione è pagata con i contributi dei lavoratori e delle aziende. Certo. Va bene, torniamo a noi. Allora, a maggio c'è questo accordo. Durante l'estate l'azienda comincia a convocare i sindacati, ma la CGIL non si presenta. Attenzione, questa cosa non la dico io, perché questa cosa la racconta il giudice. Il giudice del lavoro di Roma, al quale la CGIL si è rivolta per chiedere la condanna dell'azienda per comportamento antisindacale. Quindi il giudice ha fatto il suo lavoro. Cioè comportamento antisindacale parti, perché poi l'azienda è arrivata a licenziare. Perché veramente, esatto, non solo, ma è arrivata a licenziare dicendo: guardate, io licenzio quelli di Roma perché quelli di Napoli hanno accettato di discutere, mentre quelli di Roma no. E quindi attenzione, perché questa è una cosa importantissima. Attenzione, La cosa incredibile è che dicono di no. A Roma i delegati della SLC, della CGIL SLC, che sono i colleghi dello stesso sindacato di Napoli. Cioè i delegati si comportano in modo diverso, della stessa organizzazione. Di fronte a proposte analoghe? Di fronte a proposte analoghe. Mm. È un fatto incredibile questo. Vedremo dopo anche perché. Riporto quanto dice il giudice. Il giudice dice che la trattativa parte a settembre, dopo l'accordo di maggio, ma il 22 di settembre, se non ricordo male, la CGIL dice no, guarda, ho cambiato idea, il controllo individuale non lo voglio più discutere con te, magari ne parliamo quando ci sarà il contratto nazionale. A quel punto l'azienda dice, vabbè, io ho un impegno per cui entro 6 mesi tu mi dovevi fare questa cosa, non la facciamo, allora io faccio partire la procedura di licenziamento collettivo che è previsto dalla legge 223. Questa procedura dura 75 giorni, ok? E scade il 22 dicembre del 2016. Quindi siamo alla vigilia di Natale, ok? Cosa succede quel giorno? L'azienda e il sindacato non si mettono d'accordo. Interviene il governo nella persona del ministro Calenda, credo ci fosse anche Poletti, se non ricordo male, la Terranova, una delegazione governativa di peso, e propone di fare un rinvio. Sostanzialmente propone di 3 mesi di cassa integrazione durante i quali le parti dovrebbero trovare questo benedetto accordo. Questa cosa, l'azienda non la voleva, fino all'ultimo si oppone. So per certo, questo non lo dice il giudice, che Calenda ha esercitato delle pressioni fortissime sull'azienda e alla fine l'azienda dice vabbè, firmiamo questa cosa. A questo punto la parola passa ai sindacati. Sì. Dice il giudice, non lo dico io, i sindacati convocano una riunione, addirittura arriva la Camusso, arriva la Furlan nella sede del Ministero e a quel punto, come c'è un comunicato della CGIL SLC, cioè quella delle comunicazioni che lo conferma, a quel punto si scatena uno scontro durissimo nella delegazione della CGIL, i delegati delle due organizzazioni si dividono e nonostante il parere favorevole della segretaria nazionale, quindi della Camusso, i delegati di Roma dicono di no ai 3 mesi di trattativa, perché chiedono che l'azienda rinvii la minaccia del licenziamento. A quel punto l'azienda, mentre invece i rappresentanti della stessa organizzazione, cioè della CGIL a Napoli, avevano già detto sì della disponibilità. Mentre quelli danno il sì, dicono di sì, i delegati. Quindi succede che l'azienda fa partire i licenziamenti per esuberi soltanto a Roma. Ok? E questo non è, questi fatti li racconta il giudice. La cosa clamorosa di questa sentenza, che ripeto è nata da una richiesta della CGIL di fare chiarezza e di condannare l'azienda per comportamento antisindacale, è che tutta la vicenda è stata ricostruita nel dettaglio e in modo, è stata certificata con le carte, non c'è una... È una sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma firmata dal giudice Renata Quartulli. Certo, che ha condannato tra l'altro la SLC a pagamento di alcune spese e ha rigettato tutte e quattro le richieste della CGIL. Questi sono i fatti. Poi c'è un prologo. In sostanza a Napoli si è raggiunto un accordo, questo circa 2 mesi dopo, il 28 febbraio, per cui, attenzione, anche questo è un punto importante, un accordo che è stato sottoposto al referendum, nel quale referendum circa 500 votanti hanno votato a favore e 300-350 hanno votato contro. E questo accordo prevede che per 3 anni vengano ridotti gli stipendi di circa il 5%, non venga pagato il TFR, ma l'azienda, e questo è un punto interessante se non altro, l'azienda si impegna nel momento in cui dovesse ritornare ad entrare nel mercato, a prendere delle gare e a rimettere in ordine i conti, si impegna a restituire quanto i singoli lavoratori diciamo, ci rimettono in questi anni. L'azienda si impegna a far vedere i propri conti ai sindacati e con loro a vedere quanto deve restituire se riuscirà a tornare a stare in piedi. No, no, è la stessa scommessa fatta da grandissimi gruppi in Germania, per esempio negli anni 90, la Volkswagen, che poi portò anche i pacchetti Hertz. Cioè, ragazzi, le cose vanno male, prendiamo delle decisioni di responsabilità comune per poi difendere l'occupazione attuale e quando le cose vanno meglio restituire e tornare ad assumere. Questo è la singolarità, però, cari ascoltatori, è che qui, ripeto, siamo in presenza di una sentenza che ricostruisce tutto questo, che respinge l'impugnativa della CGIL contro l'azienda Almaviva per atteggiamento antisindacale nei suoi licenziamenti. Gli chiedeva di bollarli come atteggiamenti antisindacali e quindi di recedere dai licenziamenti. Invece il giudice del lavoro scrive: no, scusate, qui la cosa è che a Napoli i vostri hanno detto sì, a Roma prima hanno detto sì, poi hanno ritirato la disponibilità. Poi, di fronte al fatto che l'azienda aveva detto: però, se non possiamo trattare con voi perché avete cambiato idea e quindi non c'è la possibilità di definire come facciamo delle verifiche di produttività, ma d'accordo tutte e due le parti, io a quel punto avevo detto devo licenziare. A quel punto la proposta diventa: o ritiri i licenziamenti o addirittura non parliamo proprio di niente. E il giudice dice: signori, ma ve la siete voluta, perché le cose erano chiare, non è un atteggiamento antisindacale. Ogni volta l'azienda parlava, a Napoli hanno accettato e i posti sono difesi, a Roma voi stessi avete rifiutato. Prima avete detto sì, poi avete detto no, poi avete addirittura detto non se ne parla di fronte a quello che l'azienda aveva proposto prima e ha messo in essere, ma perché voi siete spariti al tavolo. Allora, qui il problema, per quello che mi riguarda, e ringrazio anche Diodato Pirone che è stato l'unico in Italia a entrare nel merito di questa sentenza, qui il problema non è tanto della CGIL, è ovvio che potete giudicarla come volete, io ho un giudizio negativo, però non si può avere un giudizio negativo a metà, perché a Napoli hanno capito, come vedete, e hanno difeso i posti. Qui il problema è che la Camusso, la segreteria nazionale che si presenta al ministero dice una cosa e la rappresentanza invece del sindacato di categoria nell'azienda Almaviva di Roma dice l'opposto. È evidente che siamo in presenza, scusatemelo, del caso bis, ma in precedenza perché viene prima, di quello che è successo in Alitalia, di cui oggi si delibera all'unanimità dei soci, dei grandi soci dell'azienda, la necessità di un commissariamento speciale straordinario con i commissari indicati dal governo. Ma è lo stesso problema, come vedete, cioè come fanno le aziende in crisi a sapere a questo punto come fidarsi dei vertici confederali? Perché a quel punto arrivano i vertici confederali quando sono aziende di questa importanza, migliaia di posti di lavoro, cioè stiamo parlando di 1666 licenziamenti a Roma. Come fanno a fidarsi? Come ci si fida a questo punto? La rappresentanza non conta più niente, tanto vale allora fare le proposte direttamente a tutti i lavoratori, ma a quel punto a cosa servono i sindacati? Io sono per la necessità di sottoscrivere alcune intese al voto, sono anche tra l'altro ben dettagliate in due accordi interconfederali di un po' di anni fa, firmate da tutti i maggiori sindacati con le associazioni datoriali. Ma dopo Almaviva, con un giudice che dice così, certo un problema c'è ed è grande. A Napoli evidentemente chi rappresentava in Almaviva a Napoli da parte della CGIL l'ha capita in maniera diversa questa stessa proposta e l'ha pure difesa. Ci sono stati 300 voti contrari, ma la maggioranza l'ha capita che bisognava stringere i denti. Io non sono per stringere i denti dando ragione alle imprese sempre, non entro in questo merito qua. Dico che questa sentenza però dovrebbe fare molto discutere, molto, perché altrimenti è inutile farle le intese sindacali. In Alitalia è evidente che è stato così. E la cosa non riguarda solo la CGIL, la cui segretaria nazionale poi ha detto: capisco i lavoratori, ma come l'hai firmata? Dovevi batterti per convincerli. Nella UIL, nel personale di volo, la UIL ha firmato l'intesa, ma per il personale di volo di Alitalia, che è quello che compattamente ha votato no, aveva chiesto la libertà di coscienza. E allora però a cosa serve la rappresentanza sindacale? Scusate, questo è il problema, secondo me, rappresentato da questa prima vicenda. Adesso andiamo nel traffico e ne raccontiamo un'altra che avviene il 5 maggio, quindi tra pochissimi giorni. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. La la versione di Oscar. Allora, dopo questa prima storia di una sentenza che è veramente inedita, perché il giudice del lavoro che respinge la proposta del sindacato di giudicare illegittimi dei licenziamenti perché antisindacali, in quanto dice no, veramente a Napoli i vostri nella stessa impresa hanno capito e ce l'hanno al posto, a Roma voi prima avete detto sì, poi avete cambiato idea, poi avete detto niente, ritirate qualunque cosa che l'azienda aveva avvisato avrebbe fatto, in più al ministero il vostro segretario nazionale diceva sì e voi avete detto no, quindi noi non li vedo, dice il giudice, gli estremi dell'atteggiamento antisindacale, il che significa una gravissima responsabilità sindacale. Ripeto, 1066 licenziati a Roma, a Napoli gli 800, a prezzo di gravissimi sacrifici, invece continuano a scommettere e il posto di lavoro ce l'hanno. Certo, c'è una riduzione di costi, più produttività, quello che volete voi, ma è meglio o è peggio della disoccupazione? Domanda. La stessa cosa che in Alitalia, secondo me, e adesso però andiamo all'altra vicenda. Questa vicenda rimbalza da qualche giorno sui siti che si occupano di scuola. Ieri Gian Antonio Stella a scrivere sul Corriere della Sera. In questo caso si tratta di un'assemblea, vero Diodato? Sì, nella sostanza, come appunto riporta Gian Antonio Stella sul Corriere, come penso molti ascoltatori sapranno, ci sono state negli anni scorsi polemiche durissime intorno all'invalsi, no? Alla validità di questa prova che certifica sostanzialmente la capacità di apprendimento degli studenti, diciamo, delle materie scientifiche, della matematica. Perché molti sindacati e molti insegnanti rifiutano il criterio della formulazione dei quesiti. Naturalmente il criterio è standard, perché per fare un ranking internazionale il criterio deve essere standard, no? Allora, di fronte a questo molti dicono no, è riduttivo, è nozionistico, è ingannevole, non si può misurare la qualità della preparazione, il che significa indirettamente la qualità e il merito naturalmente degli insegnanti, perché questo è il punto. E ci si ripropone sull'invalsi lo stesso tipo di no a criteri oggettivi noti ex ante e poi ottenuti ex post per misurare il salario di merito nella scuola. Ricordo a tutti che la CGIL e gli altri sindacati sono riusciti da poche settimane a far saltare il salario di produttività per i dirigenti scolastici, che doveva essere uno dei pilastri della buona scuola. Questo è lo sfondo per cui molti dicono no all'invalsi. Sì, c'è un problema di meritocrazia, cioè un insegnante bravo, diciamo secondo una certa retorica sindacale, retorica che, se mi permetti, se torno un attimo su Almaviva, ha avuto un ruolo pesantissimo in Almaviva, e questa meritocrazia non deve essere misurata, ecco, in alcun modo. Peccato che gli invalsi siano dei test europei. Quindi. Appunto. Allora, adesso che cosa è successo? È successo che il 5 maggio si dovrebbero tenere questi test, e la CGIL di Roma convoca un'assemblea per tutti quanti i professori, ma anche per i bidelli. Ora, diciamo, fa abbastanza specie che venga convocata questa assemblea dalle 8 alle 11 al 5 maggio, quando c'è il test di matematica per le seconde e le quinte della scuola primaria italiana. Ma come scrive il Corriere, c'è anche un altro problema, gli insegnanti devono chiedere ovviamente al preside un permesso per assentarsi e per andare a questa assemblea, ma non devono portare la giustificazione. Tradotto, non è detto che vadano a questa assemblea. Quindi qui c'è un doppio problema, no? Mi sembra evidente. Da una parte c'è un modo di intendere il sindacato. Attenzione, non è solo la CGIL che ha questo atteggiamento, perché contro l'invalsi sono in tanti, solo che alcuni lo dichiarano. Dai sindacati autonomi, qui il problema non è dichiararlo, ma convocare un'assemblea, diciamo, così, non contro l'invalsi, ma per rendere impossibile la prova. Cari ascoltatori, per essere chiari, tutti i docenti di tutti gli istituti comprensivi della provincia di Roma, stiamo parlando di 44, i numeri sono nel Corriere, 44.588 persone, più 8.500 amministrativi e bidelli, quindi stiamo parlando di 53.000, 54.000 quasi persone, e l'assemblea è convocata in un'aula che ha 150 sedie, quindi come è evidente ed è tutto strumentale, insomma, ecco. Sì, questo pone parecchi problemi, cioè la strumentalità dell'iniziativa è evidente, io ho una remora che è di tipo politico-culturale, ma può un sindacato che si riferisce alla sinistra combattere contro la meritocrazia nella scuola? Ma insomma, qui noi abbiamo i figli di quelli che hanno i soldi ereditano le aziende, ereditano gli studi professionali, hanno la strada spianata. Hanno più soldi per andare a fare istituti, università all'estero, perché poi chi ha poco reddito non ce l'ha. Ma se noi non li prepariamo nella nostra scuola, se non diamo sostanza alla scuola pubblica, ma come facciamo a rimettere in moto l'ascensore sociale? Io posso capire che, tra virgolette, il boicottaggio della scuola di un certo livello venga da sindacati corporativi e così via, ma un sindacato confederale... Hanno letto Gramsci questi signori? Io comincio a avere i miei dubbi. Non mettere in dubbio te, nomi sacri, eh? Vabbè, però perdonami, anche se ritorno sul caso Almaviva, tu giustamente hai detto, ma come fa un'azienda a regolarsi se gli stessi rappresentanti dello stesso sindacato operano in modo diverso in due no. Sulla stessa proposta, per di più. Quindi, ma certo, ma il problema è anche dei lavoratori. Ma come fa un lavoratore a capire da chi è tutelato? Come si fa? Cioè, guarda, è impressionante. Il caso Almaviva è impressionante perché alla fine sono stati distrutti 1600 posti a tempo indeterminato. Quelli erano dipendenti, cioè non erano precari. Non è vero, come tutta la retorica che c'è sui call center, che prendevano poco, che erano... Allora, il lavoratore del call center che lavora 8 ore al giorno guadagna fra i 1.200 e i 1.500 euro al giorno a seconda dell'anzianità. Il lavoratore che fa 6 ore guadagna circa 900-950 euro. Il lavoratore che fa 4 ore guadagna circa 700 euro. Ma 4 ore sono 20 ore a settimana. C'è la possibilità di fare un secondo lavoro. Sì, naturalmente noi non stiamo dicendo che lavorare nel call center è la soddisfazione massima della vita, la realizzazione della massima ambizione. Stiamo dicendo, però, essendo questa la retribuzione contrattuale, meglio avercele o no? La risposta è meglio avercele. Allora, chiunque dica di no, perché gli andiamo in culo all'azienda, secondo me è matto. Comunque, chi ha rappresentato in quel modo quei lavoratori a Roma, con questa sentenza, io non lo so, qualcuno forse lo chiamerà a rispondere. Io sto dicendo civilmente, a ragionare, non a metterlo nel mirino per dire chissà cosa gli deve succedere. Ma dovrebbe farlo forse il sindacato di categoria, la CGIL, o no? Ma certo, infatti io mi sono permesso di chiudere il pezzo raccontando la sentenza del giudice Quartulli, del Tribunale del Lavoro di Roma, della giustizia italiana, che racconta questa vertenza e la racconta nel modo che abbiamo raccontato, chiedendo: ma è possibile che non ci siano regole? È possibile che due lavoratori, uno di Roma e uno di Napoli, debbano essere tutelati in modo diverso? Beh, dagli stessi. Questa è una stessa organizzazione. Come sai, non c'è la legge attuativa dell'articolo della Costituzione che prevede la possibilità per i partiti da una parte, un altro articolo, 39 e 49, dall'altro per i sindacati, non ce l'abbiamo, la legge che li obbliga a dei minimi di democraticità interna e a consegnare i bilanci per parte economica e patrimoniale nella loro completezza, e quindi i sindacati sono associazioni giuridicamente riconosciute, libere. Però queste sono alcune, due contraddizioni, ve le abbiamo proposte, io non voglio giudicare, giudicate voi a casa, mi dispiace per chi era pronto, ci sono telefonate, però il tempo è finito. Grazie, Leonardo Pirone, con il suo 24, appuntamento con me Alessandro Milano domani alle 8:20, attenti alle 2.